Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. In questa puntata, la signora della narrativa italiana si racconta. Incontro con Sveva Casati Modignani. Leggere libri ai bambini fin dai 6 mesi d'età aiuta lo sviluppo cognitivo ed emotivo. I risultati del progetto Nati per Leggere. Oggi siamo in compagnia di Sveva Casati Modignani, insomma un pilastro della narrativa italiana. Tutti i libri che lei pubblica, i romanzi, puntualmente entrano in classifica. Credo che complessivamente nel mondo, perché viene tradotta anche in tanti altri paesi, in tante altre lingue, abbia venduto 10 milioni di copie, ma adesso lo chiederemo direttamente a lei. Oggi siamo qui per parlare del suo ultimo libro, che si intitola Il bacio di Giuda, pubblicato da Mondadori. Un libro che ho trovato veramente bello, appassionante, perché è la vera storia di Sveva Casati Modignani, che aveva già iniziato a raccontare in un altro libro, sempre pubblicato per Mondadori, mentre gli altri sono pubblicati per la Sperling e Kupfer, che si intitolava Il diavolo e la rossumata. Insomma, attraverso questi due libri, Sveva Casati Modignani, lei ha raccontato molta parte di sé, anche cose, insomma, particolarmente aspre della sua vita, il rapporto con sua madre, per esempio. Poi c'è il periodo naturalmente del dopoguerra, le difficoltà, insomma, si vede la storia con la S minuscola e quella con la S maiuscola, come normalmente si dice. Perché dopo tanti libri di narrativa ha deciso ultimamente di raccontare così tanto di sé? Beh, è nato assolutamente per caso, è nato col diavolo e la rossumata questa idea, perché mi avevano chiesto un libro di ricette. Io non potevo certo mettermi a far concorrenza alle signore che guidano i programmi televisivi e che di cucina sanno tutto, ma ho detto con l'editore: ma potrei raccontare il cibo che mi davano quando ero piccolina e c'era la guerra. E allora l'editore disse: ma è fantastico, perché rivisiti un pezzo della nostra storia. E così è nata questa prima cooking novel, vogliamo dire, perché le ricette poi sono in fondo, ma sono in fondo al libro, ma lì ho raccontato i miei anni fino al 1945, e questo l'ho raccontato nel primo volume, che era Il diavolo e la rossumata. E poi è venuto appunto Il bacio di Giuda. E poi è venuto Il bacio di Giuda perché mi sono accorta che forse valeva la pena anche di raccontare gli anni dal 45 al 50, quando l'Italia è un paese completamente sfasciato, arrivano gli americani e si comincia a ricostruire il nostro paese, facendo un raffronto tra la crisi davvero enorme, visibile, tangibile di quegli anni e quella attuale. E la differenza io la leggo come la leggevo negli sguardi della gente. In che senso? Allora la gente era nel 1945-46 era disperata, era alla fame, però negli sguardi delle persone c'era la luce bellissima, folgorante, della speranza. Negli sguardi delle persone di oggi, padri di famiglia che hanno perso il lavoro, gente che non ha la pensione, non ci sono più tutele, ci sono le ombre del domani. Oggi stiamo male, domani come staremo? Probabilmente peggio. Cioè non c'è più la speranza, c'è il pessimismo, e questo è deleterio. In questo libro, Il bacio di Giuda, lei parla molto della figura materna di sua madre, che è stata, come lei racconta, insomma, una donna aspra, probabilmente anche anaffettiva. Insomma, lei aveva un rapporto conflittuale con sua madre. Ora, non voglio naturalmente fare l'analista freudiana, però insomma, a distanza di tanti anni, questa figura materna è ancora così imperante nella sua vita, sembra proprio un'ombra. Lei la racconta naturalmente. Sai, la mamma la mamma è una sola. Come diceva mio fratello, io sono sfigatissimo perché ne ho due, mia madre e mia sorella. Quindi era una strana donna. Per definizione mia e di mio fratello, la mamma era una donna molto strana. Io non ricordo un abbraccio o un bacio della mia mamma, però la mia mamma mi accudiva tantissimo, mi preparava delle merendine, dei pranzetti squisiti, e li faceva proprio per me. La mia mamma, che pure soffriva di miopia ma aveva un'abilità manuale straordinaria, stava tutto il tempo il pomeriggio a tagliare, misurare, provarmi i vestitini che faceva, me li ricamava. Quindi era il suo modo di volermi bene, non sapeva probabilmente esprimerlo, no? E il suo modo di volermi bene era quello. Io poi, crescendo, mi sono messa anche nei panni di questa donna che aveva una figlia tutt'altro che facile. Ecco, lei si definisce spesso, o meglio, dice che gli altri la definivano ribelle e che tuttora molti le attribuiscono questa caratteristica, però lei non si riconosce completamente in questo essere ribelle. Che cos'è per lei essere ribelle e non esserlo? Per me i ribelli sono gli anarchici, sono quelli che fanno le rivoluzioni. Io mi considero una signora molto mite, dolce. Certo, quando mi trovo in una situazione che mi va stretta, che non capisco, che mi crea disagio, piuttosto che tacere, mi sparo, quindi protesto, quindi mi faccio sentire. Ed era quello che facevo anche da bambina. Certi atteggiamenti della mamma, così enfatici, vorrei dire di tipo ottocentesco: questo non si fa, una bambina non può fare quello, la mia bambina quando viene a spasso con me deve tenere in braccio la sua bambola. Io queste cose non le sopportavo, mi sembravano ipocrisie sconfinate, e allora protestavo. Insomma, una bambina che sapeva cosa voleva, insomma, aveva delle decisioni precise, veniva considerata ribelle. E ne prendevo tante. Perché mia mamma mi sculacciava. Lo racconta in questo libro. Infatti il titolo, il bacio di Giuda, ecco, mette anche un po' tristezza, perché c'è la frase in cui lei racconta questo episodio. Era, insomma, successo un episodio anche banale, assolutamente. Lei aveva soccorso sua nonna, insomma, sì, sì. Fra sua nonna e sua sì. Madre c'era un rapporto molto conflittuale. E lei dice: «Mamma, mi dispiace tanto», sussurrai, posandole un bacio sulla guancia. Lei mi allontanò da sé. «Non voglio il tuo bacio di Giuda». Perché si era sentita tradita. Io non avrei dovuto soccorrere la nonna con la quale lei aveva litigato, ma precipitarmi subito da lei. Invece io prima soccorsi la nonna, poi andai da lei portandole delle ortensie, dei fiori, e la mamma li spazzò via dal grembo dove io gliel'avevo posati. Mentre cercavo di darle un bacio, lei mi disse: «Non voglio il tuo bacio di Giuda, sei una traditrice come la nonna». Altre frasi che ho segnato in questo libro, giusto per capire anche un po' il senso e la narrazione: «Non piangevo per le sculacciate, ma per essere costretta a dichiarare una colpa che non sentivo». Insomma, ritorna spesso questa cosa. Lei sentiva di essere nel giusto, però sì, in qualche sì. modo sua madre o comunque gli altri la condannavano. Ma mia madre poi era una baciapile pazzesca. Una volta avevo 10-11 anni, trovò nel cassettino del mio comodino un tubetto di burro di cacao rosa. È crollato il mondo. Mi sono sentita dare della donnaccia, mi sono sentita dare della pianta storta, e io non mi sentivo colpevole per aver preso del burro di cacao, che tra l'altro aveva un profumo soavissimo. Però la faceva sentire in colpa sua mamma. Ecco, altre cose che sono belle, insomma, in questo libro, Il bacio di Giuda. Come dicevo all'inizio, si scopre anche la storia con la S maiuscola, appunto il dopoguerra. Lei a un certo punto scrive: «La mancanza di cibo e di alloggi era il tormento quotidiano. Gente bussava alla porta di casa nostra implorandoci di poter affittare una stanza. La mamma offriva indumenti usati, pane, un pezzo di formaggio». È bello perché si riscopre proprio l'atmosfera. Io ho trovato i racconti dei miei genitori, insomma, magari in luoghi geografici diversi, però il senso era quello. È un libro che insegna anche molto come viveva la gente all'epoca. Io non so se insegna, ma certamente lo racconta. Queste storie, quando le hanno lette i miei nipotini, ci sono rimasti attaccati, proprio avvinti, continuavano e continuano a farmi domande, vogliono sapere altro, perché è un mondo che, se non glielo raccontavo io, i loro genitori non glielo avrebbero mai raccontato. E sui testi di storia queste piccole quotidianità. La vita quotidiana non c'è. Non le trovi, soltanto chi questo periodo ha attraversato e ha probabilmente anche la capacità di raccontarlo, riesce a far capire com'era il nostro mondo. Lei dice chiaramente che questo libro l'ha scritto anche un po' spinta dai suoi nipotini, appunto, sì, perché sì. Avevano letto Il diavolo e la rossumata, sì, e volevano sapere di più. Sì. Lei sente proprio il desiderio di voler raccontare se stessa com'era ai suoi nipoti e agli altri? C'è un momento della vita in cui uno dice, beh, ti voglio dire com'ero? Questo è venuto dopo, volevo proprio raccontargli quel mondo lì. Quando gli racconto com'era a cupa l'atmosfera della mia città, quando c'erano i militari tedeschi e quando arrivano i colori dell'arcobaleno con i militari americani, che erano, a differenza dei tedeschi, cupi, incombenti, a volte perfidi, e questi erano solari, distribuivano regali, facevano musica, la sera si ballava nei cortili dei palazzi. Volevo proprio fargli mettere a confronto questi due mondi, quello dell'oppressore e quello del liberatore. La liberazione degli americani è stata molto importante perché ci hanno portato davvero il senso della democrazia. Alla fine di questo libro c'è una piccola parte scritta da suo fratello, perché insomma ci dà la sua versione della vostra vita familiare, di alcuni episodi, appunto, del rapporto con la madre. Il mio fratellone, che ha 10 anni meno di me, per quello lui diceva che era sfigatissimo perché aveva due mamme. E lui dice, per esempio, io so che non posso mai disturbare mia sorella, vabbè, quando scrive, ma soprattutto quando fa il suo riposino pomeridiano. Questa cosa del sonno l'ho trovata anche in altre cose, in alcuni siti, alcune sue dichiarazioni, dice io sono una cultrice del sonno. Sì, sì, insomma, sì. Dalle 3 alle 5 del pomeriggio non possiamo chiamarla. No, dalle 3, dall'1. Ah, dall'1, è vero, perché lei mangia... Alle 12 sì, e mezza, sì, io giusto. Sono molto lombarda, no? Alle 12 e mezza mangio, l'1 vado a fare il sonnellino, ma io per fare il sonnellino mi spoglio, mi metto il pigiama, come se dovessi andare a letto per la notte, leggo mezz'oretta e poi mi abbiocco, ed è una meraviglia. Lei è molto legata alla città di Milano, lei vive ancora nella casa di sua nonna, dove è cresciuta, per spiegare ai non milanesi, in una zona nord di Milano, la zona di via Padova per intenderci. Perché ha voluto continuare a vivere in quel posto? Che senso ha per lei, che senso hanno le radici anche, come dire, esterne? Perché poi ognuno si sente di un posto, però voler restare in quella casa. E perché lì c'è la mia vita. Io ho una casa dove c'è molto legno dentro e il legno è un materiale vivo, si muove, parla. Di notte gli scricchioli e le chiacchiere tra... la credenza e l'armadio si scambiano parole, e c'è qualche vecchio tarlo che ogni tanto dà dei tac tac con le sue ganasce, mi fanno molta compagnia. Insomma, sono la storia della sua vita. Lei non ha cambiato l'arredamento, mi sembra di capire, anche così com'era, ma mi piace conservare com'era. Sì, ma mi piacerebbe anche tanto che la mia città avesse conservato l'impronta che aveva. Beh, Milano è stata abbastanza stravolta negli anni 60, negli anni del boom economico, non si è ricostruito com'era, no, ma si è cambiato al molto. Al posto delle macerie hanno ricostruito brutture innominabili, e lì io sarei d'accordo con quelli che dicono spianiamo tutto, perché hanno fatto cose orrende. Ogni città rispecchia l'anima della gente. Milano è sempre stata e lo sarà sempre un grosso borgo di provincia, non è una capitale Milano. Milano è un grosso borgo, ricco di fermenti culturali, di iniziative, ma un borgo. Perché vogliamo costruirci i grattacieli come se Milano fosse New York, come se fosse Madrid, come se fosse Berlino? Non ha gli spazi, non ci sono questi ampi respiri. Milano non ha il Central Park. Lei è nostalgica. Io ho una grande nostalgia per la mia città com'era 80 anni fa, com'era 70 anni fa. Ho nostalgia dei rapporti umani che esistevano nell'ambito dei quartieri, della strada, del rione, tra le persone. ho nostalgia delle piccole cose che rendono importanti la vita, e le piccole botteghe, i magazzini degli artigiani. Nella mia strada c'era il professore di lettere, c'era il preside dell'istituto tecnico, c'era il carrozziere, c'era l'operaio della Marelli, c'era tutto un miscuglio ed eravamo tutti insieme e uno nella casa dell'altro, c'era una comunità che era anche a volte deleteria, ma più spesso soccorrevole. Si finiva per essere tutti una famiglia, tutti amici. All'inizio di questa intervista dicevo che lei nel mondo ha venduto circa 10 milioni di copie. 11, ecco, ha scritto più di 20 romanzi, insomma tradotti in vari paesi. Che idea si è fatta in tutti questi anni dei suoi lettori? Chi è che legge i libri di Sveva Casati Modignani e che cosa piace nei suoi libri? Perché lo dicevo all'inizio, ogni volta che esce un suo romanzo, assolutamente primo o secondo in classifica, insomma entra subito nella classifica dei primi 10 più venduti. Sì, l'idea me la faccio quando incontro le persone, soprattutto le donne, però ci sono anche tanti uomini in libreria. L'editore aveva fatto una ricerca per stabilire, aveva scoperto questo pubblico trasversale, per cui il mio romanzo lo legge la badante rumena che è venuta in Italia e ha imparato l'italiano, e la donna magistrato, attraversa tutti gli strati sociali. Credo che io mi sono chiesta come riescano a convivere la donna magistrato e la badante rumena, e ho capito che convivono nella lettura di queste storie perché io racconto la storia di noi donne attraverso gli anni, cioè la strada che le donne hanno fatto nel nostro paese, nel nostro contesto sociale, politico, e quindi racconto poi le loro passioni, le loro storie d'amore che sono molto coinvolgenti, e quindi si ritrovano tutte, perché sono i sentimenti più elementari quelli che io vado ripercorrendo romanzo dopo romanzo. Ci sono dei grandi scrittori, non so, mi viene in mente Philip Roth, Alice Munro, che appunto ha vinto anche il Nobel, che a un certo punto della loro vita hanno detto: beh, adesso non scriviamo più perché non abbiamo nient'altro da scrivere. A lei capita mai di avere questa sensazione di non avere niente di nuovo da raccontare? Ogni volta che finisco un romanzo, perché è come se avessi sfornato un figlio e mi dico: beh, questo è l'ultimo, non scriverò più niente. E che sollievo, anche perché non ho nessuna idea per una nuova storia. Poi invece l'idea arriva, non so dire come, ma arriva senza che io la cerchi, e quando poi però mi viene questa idea, le mie dita cominciano a fremere, cercano la tastiera della Valentina, perché devo cominciare a raccontare una nuova storia. Grazie a Sveva Casati Modignani per averci raccontato non solo Il bacio di Giuda, appunto ora in libreria per Mondadori, abbiamo parlato anche del Diavolo e la Rossumata, sempre Mondadori, ma per averci raccontato insomma il suo mondo, la sua Milano, i suoi libri, il suo modo di scrivere, il suo rapporto così intimo appunto con la scrittura e il mondo milanese che la circonda. Grazie Sveva Casati Modignani. Grazie a lei per avermi ospitata. Ora parliamo del progetto Nati per Leggere, che compie 15 anni. Insomma, questo progetto ha come obiettivo promuovere la lettura in famiglia, come momento piacevole, per fortuna, insomma, fra genitori e bambini, fin già a partire dai 6 mesi di età. Al progetto aderiscono pediatri e bibliotecari, come dicevamo, quest'anno compie appunto 15 anni. E allora ne abbiamo parlato, traendo anche un po' un bilancio di quanto fatto, con Giorgio Tamburlini, che è un pediatra ed è presidente del Centro per la Salute del Bambino Onlus, che è uno dei 3 promotori del programma. Abitualmente alla visita del 6° mese il pediatra consiglia ai genitori di cominciare a leggere ai bambini ogni giorno possibilmente, e di cominciare a frequentare la biblioteca dove troveranno altri libri. Il pediatra spiega ai genitori i benefici della lettura precoce in famiglia. I genitori poi frequentano la biblioteca, in biblioteca trovano la possibilità di fare delle letture condivise, dove apprendere anche le modalità con cui la lettura al bambino piccolo viene effettuata in maniera più efficace, conoscono i libri per le diverse età, le loro caratteristiche. Quello che è effettivamente l'attività più efficace è quella di leggere ai bambini in famiglia. Ecco, da che età bisognerebbe iniziare a leggere libri ai bambini, prima che imparino loro stessi naturalmente a leggere? Noi consigliamo la lettura a partire da 6 mesi, ma in realtà si potrebbe iniziare anche prima, e nulla esclude che lo si faccia addirittura prima della nascita, in particolare se la lettura è quella di rime filastrocche o accompagnate da musica. Il bambino prima di nascere è perfettamente in grado di riconoscere la voce materna, e quindi questa attività è un'attività fra le tante che contribuiscono a sollecitare il cervello del bambino prima e anche dopo la nascita. Però diciamo che non è proprio il caso di aspettare dopo i 6 mesi, perché a 6 mesi il cervello del bambino è assolutamente pronto a riconoscere il senso della parola, riconoscere i volti, cominciare a vedere le figure, divertirsi, trovare piacere a stare in braccio alla mamma o al papà con il libro davanti. Si sa che i bambini sono abitudinari, tendono a chiedere sempre la stessa storia o sempre lo stesso libro. In questo i genitori devono assecondarli o invece devono spingerli a conoscere sempre volumi diversi? Ma assolutamente devono assecondare i bambini, perché questo è un'espressione di curiosità in realtà e di volontà di appropriarsi e di in qualche modo padroneggiare, no? Lo strumento libro, la storia. Però certo è bene che ai bambini venga offerto ogni tanto anche qualcos'altro. Veniamo poi ai risultati di questo progetto Nati per Leggere. Quali sono i vantaggi dal punto di vista psicologico per i bambini ai quali sono stati letti libri, storie, a partire, come dicevamo, dai 6 mesi in poi? Dunque, se questa attività, perché gli studi effettuati, che sono molti, effettuati sia in Inghilterra, negli Stati Uniti e anche in Italia, se questa attività viene effettuata con una certa abitudine nelle famiglie, quindi diciamo non necessariamente ogni giorno ma quasi, i benefici sono su più piani: quello cognitivo, quindi sviluppo del linguaggio, del vocabolario, della capacità di comprendere le parole e quindi anche di usarle, che poi porta ovviamente a una maggiore capacità di essere pronti una volta che si entra nella scuola vera e propria. Poi sul piano emotivo, la capacità di riconoscere, dare un nome alle emozioni e quindi di essere più consapevoli rispetto a queste, alle varie vicende della vita. Poi sul piano relazionale c'è un grandissimo beneficio, perché di fatto si offre ai genitori, che oggi sono molto spesso incerti rispetto alle cose che si possono fare coi bimbi, a volte ne fanno troppe, a volte troppo poche, gli si dà in mano la possibilità di un'esperienza di qualità. Anche per oggi è tutto, grazie in regia Roberto Scaltritti. Vi ricordo che trovate sempre il podcast di questa trasmissione, mi trovate su Facebook come Il Cacciatore di Libri - Radio 24 e anche su Twitter come Ale Teddina. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.